apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io ho un'agenda elettronica dove segno ogni mio appuntamento del giorno. L'agenda elettronica poi la riporto sul mio telefono cellulare. Il mio telefono cellulare, come accendo il mio computer, si allinea con il file della mia agenda elettronica del computer. Io in capo a sera ho comunque tutti i miei appuntamenti, tutte le cose che devo fare, spalmate nella mia memoria digitale. Memoria estesa, memoria che lascerà comunque impresso in se stesso tutti i miei appuntamenti. Dato per assurdo che qualcuno avesse le password di tutti questi miei strumenti, potrebbe sapere tutto quello che ho lasciato in computer. Ho detto assurdo perché nessuno saprà mai quello che ho lasciato in computer se dovessi essere nelle condizioni improvvisamente di non dare a nessuno più le password del luogo della mia memoria. Visto che questo è il giorno della memoria, memoria molto più grave, molto più profonda, molto più lancinante rispetto alla povera memoria digitale, dove sono impressi gli appuntamenti e soprattutto gli impegni che devo chiudere, oggi vorrei dedicare la puntata a una poesia di Primo Levi. Primo Levi, il 19 aprile 1981, esattamente 6 anni prima di essere trovato morto in fondo alla tromba delle scale di casa sua, scrisse questa poesia, Pratiche inevase, dove lui scriveva, come se si rivolgesse a un grande capufficio, ciò che ancora doveva fare e che avrebbe voluto fare, ammesso che avesse avuto il tempo di farlo. Le pratiche inevase. Signore, a fare data dal mese prossimo, voglio accettare le mie dimissioni e provvedere, se crede, a sostituirmi. Lascio molto lavoro non compiuto, sia per ignavia, sia per difficoltà obiettive. Dovevo dire qualcosa a qualcuno, ma non so più cosa e a chi, l'ho scordato. Dovevo anche dare qualcosa, una parola saggia, un dono, un bacio. Ho rimandato da un giorno all'altro, mi scusi, provvederò nel poco tempo che resta. Ho trascurato, temo, clienti di riguardo. Dovevo visitare città lontane, isole, terre deserte. Le dovrà depennare dal programma o affidarle alle cure del successore. Dovevo piantare alberi e non l'ho fatto. Costruirmi una casa, forse non bella, ma conforme a un disegno. Questa è la prima parte della poesia di Primo Levi, Pratiche inevase. Primo Levi elenca una serie di cose che ha lasciato sospese, che avrebbe voluto fare, sogni di una vita, piccoli sogni quotidiani, una casa che uno avrebbe voluto costruire fatta come tutta la vita lui avrebbe desiderato. Noi viviamo in delle case che non sono le case che noi vorremmo, sono le case in cui ci adattiamo a vivere e poi sfogliamo riviste, poi vediamo case altrui e poi occhieggiamo appartamenti, stanze meravigliose, passeggiando di notte magari per le città, quando le luci sono accese fanno vedere quello che è dentro le case. Ieri sera io passeggiavo per Milano e stava facendo la neve, poi non è diventata neve abortita, era soltanto nevischio, e vedevo alcune case qui di via Monterosa, da dove sto trasmettendo, ci sono delle bellissime palazzine, c'è anche l'ex teatro Derby, che oggi è una sorta di osceno centro sociale occupato e qualcosa del genere, ma c'erano delle belle casettine in cui vedevo dentro il tepore di tempi passati, era bello perché filtrava attraverso la tormenta, immaginavo quanto mi sarebbe piaciuto vivere in una stanza come quella, ma non vivrò mai probabilmente in una stanza come quella. Adatterò a vivere nel luogo in cui ho sempre vissuto. E poi una parola, un dono, un bacio, qualcosa che abbiamo rinunciato a dare e qualcosa che abbiamo rinunciato a pretendere. 800240024, quali sono le vostre pratiche inevase? Nicola, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Lei lascia molte pratiche inevase? Ah, io non ho lasciato pratiche inevase. No, ancora non lascia niente, perché spero, grazie a Dio, che continui a avere possibilità di chiuderle, ma metta caso che debba lasciarle. Ma io personalmente non ho assolutamente rimorsi per quello che ho fatto nel passato, forse qualche rimpianto, e le pratiche che sono del passato me le dimentico, tutto là. Quindi lei è un affossatore di pratiche inevase. Affossatore di pratica, affossatore di tutto quello che è passato. 800240024, le vostre pratiche inevase. Barbara, buongiorno. Buongiorno. Quali sono le tue pratiche inevase? Le mie pratiche inevase sono quando esco la mattina e guardo la mia biblioteca e dico, ma quando riuscirò ad aprire questi libri e a studiare tutto quello che avrei voluto studiare, a leggere tutto quello che avrei voluto leggere? ma non per un discorso di cultura da riempire, proprio per questo senso sempre non appagato di qualcosa, questa fame che mi insegue, ma rispetto ai libri, rispetto ai viaggi, rispetto anche a disegni, progetti che mi sono venuti in mente nel corso dell'esistenza e non sono mai riuscita a realizzare. Ma di solito cosa fa? Questo. Si rimanda un tempo immaginario, ipotetico, e dice poi verrà un giorno in cui potrò fare tutte queste cose, sperando che il tempo ci sia dato a disposizione in maniera infinita e anche in maniera generosa, quando in realtà nessuno è generoso nell'affidarci il tempo da trascorrere. Sì, questo è vero, infatti il tempo poi finisce. Però io penso anche che questo desiderio sia anche comunque una fonte vitale, comunque non importa anche se poi non lo faremo, però il fatto che siamo sempre catturati da questo desiderio, da questa fame, nel mio caso questo tipo di fame, cioè io non desidero case, non desidero oggetti, quegli argomenti li ho archiviati, non desidero neanche pagare le multe, quelle non importa, però ci sono tutta una serie di cose che mi piace averli come desiderio, perché comunque io poi inizio comunque delle cose, poi non importa, non le finirò, pazienza. Però mi piace iniziarle, questo sì, questo cerco di farlo. Il tempo mi dà ancora delle opportunità per iniziare. Allora, Barbara ci insegna che in realtà avere molte pratiche inevase è una sorta di trappola verso il tempo. Più pratiche inevase noi apriamo ogni giorno, mettiamo ogni giorno in cantiere, più abbiamo la speranza di fregare il tempo, di avere modo che il tempo ci lasci, probabilmente, per disattenzione, non per generosità, il tempo di evadere quelle pratiche. 80024 0024, andiamo avanti con le pratiche nevase dalla voce di Primo Levi. Principalmente avevo in animo un libro meraviglioso, caro signore, che avrebbe rivelato molti segreti, alleviato dolori e paure, sciolto dubbi, donato a molta gente il beneficio del pianto e del riso. Ne troverà la traccia nel mio cassetto, in fondo, tra le pratiche nevase. Non ho avuto tempo per svolgerla. È peccato, sarebbe stata un'opera fondamentale. Vi leggo qualche commento su Facebook che questa mattina, essendo il luogo della memoria futile, della memoria fuggevole, il luogo in cui digitalmente ognuno di noi cerca di lasciare brandelli alle proprie memorie personali. Nel giorno della memoria, in cui memoria assume questo significato schiacciante, questo significato soffocante, questo significato che non sembra dare adito a speranze, noi cerchiamo di scavarci modestamente, individualmente, nelle nostre piccole memorie personali, delle visioni di memoria che perlomeno siano confortevoli, perlomeno siano per noi fonte di speranza. Una delle tante maniere di affidare la propria memoria a un supporto digitale in realtà aiuta e corrobora questo senso di speranza. Vedo che molte volte sono piccolissime, sono quasi futili le pratiche nevase dei nostri ascoltatori. Stefania dice avrei lasciato tutte le mie matite senza punta, cioè una pratica nevasa se fosse il momento fatale in cui deve fare i conti con le proprie pratiche appunto da chiudere, da terminare, Stefania avrebbe voluto fare la punta a tutte le sue matite. Qualche psicopatologo in ascolto dirà che questo è un atteggiamento maniacale, ma io invece trovo fondamentale questo ricordo fanciullesco delle matite che devono avere tutto al punta. Noi avevamo i pastelli giotto erano delle matite semplicissime, di legno, e più le appuntavamo e più si accorciavano, cioè i colori più usavamo erano quelli più corti, il rosso era cortissimo rispetto al viola che si usava pochissimo, perché il viola a quei tempi non andava molto di moda. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, io ringrazio di questo programma. E quello che ci stiamo dicendo forse ce lo dobbiamo dire un po' sottovoce, no? Perché parliamo di sentimenti anche. Ma i sentimenti, mica uno deve aver pudore dei propri sentimenti. No, ma però se li diciamo sottovoce sono più intensi, sono più confidenziali. Se vogliamo dirgli nell'orecchio di qualcuno in cui vogliamo fare colpo, certo dobbiamo sussurrarli, sennò a me piace urlarli i sentimenti. Bene, allora diciamo facciamo un po' uno e l'altro. Si regoli come la sua natura maggiormente la fa stare a suo agio. Certo, io volevo dire che quello che mi rimane dentro è non aver creato complicità con un compagno che adesso non c'è più, perché la vita me l'ha portato via, no? E io mi sono impegnata per tutto il tempo che ho vissuto con lui di avere questa complicità, ma non ho avuto rispondenza, no? E allora mi è rimasto dentro questo vuoto, questa mancanza, questo desiderio. Ma scusi, in questo caso la pratica nevasa è del suo compagno morto, non è suo? No, però voglio dire, certe cose se non si fanno in due non si riesce a farle, no? Ma lei ha fatto tutto per ottenere quel tipo di complicità? Sì, purtroppo sì. Ma molte volte, sa, guardi, è proprio una questione biologica. Anzi, in lei rimane questo ricordo struggente e nostalgico di un'intimità non vissuta fino a fondo, che è un dono preziosissimo proprio perché gliel'ha negata al suo compagno. Poi se l'ha fatto per crudeltà o l'ha fatto per incapacità è un altro problema. Lei non lo ricorderebbe come tale se avesse bevuto fino all'ultima goccia quell'intimità? Ma diciamo che se l'avessi bevuta avrei ricordi migliori, più intensi e più piacevoli. Guardi, non è che voglio confortarla in questa giornata, le assicuro, il ricordo più piacevole di quello che non si è avuto, quello che si è avuto poi alla fine ci soddisfa e ce lo dimentichiamo. Noi sovrascriviamo un'infinità di intimità vissute fino in fondo e ce le dimentichiamo. Quelli di cui ci manca qualcosa sono quelle che in maniera più struggente ci danno il senso appunto della pratica inevasa. Eugenio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque la mia pratica inevasa di oggi sarebbe una mail che ho ricevuto ieri sera, allarmante direi, perché mi porta a conoscenza, un amico mi porta a conoscenza del fatto che dai libri di testo inglesi sarebbe scomparsa la Shoah, l'Olocausto come proprio notizia di storia, e questo mi ha un po' allarmato. Questo mio amico mi invitava come al solito a girare questa email ad amici e conoscenti, non l'ho ancora fatto perché... Io devo dire una cosa, io diffido molto da queste catene di Sant'Antonio che partono via mail, di solito sono sempre fondate su una non perfettamente attenta analisi delle fonti, molte volte vanno sullo stato emotivo, mi sembra molto difficile, molto singolare che nei libri di testo inglesi sia scomparsa la Shoah. A naso, lo dico a naso, con il gran rispetto che ho per la gravità dell'argomento, mi sembra una di quelle tante catene di Sant'Antonio telematiche che hanno al centro un bambino disperato, una famiglia moribonda, un qualcosa di terrificante. Io verificherei prima di mandare in giro qualcosa che potrebbe creare sconcerto, fastidio o disappunto, se non altro per fare la figura di uno che beve qualunque cosa venga mandata. Può essere, non dico di no, ma io verificherei comunque. Comunque, se questa è la sua pratica inevasa, fa prestissimo a evaderla, fa una piccola ricerca in rete e verifica subito. Antonio, buongiorno. Antonio? Buongiorno. Ah, sta muovendo lo scaffale delle pratiche per controllare quelle inevase. No, io stavo chiudendo una portiera. Senta, io ho una pratica inevasa da tanti anni. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Sono coetanei, forse, perché io ho 56 anni. Sì, infatti purtroppo siamo coetanei. Ecco, la mia pratica inevasa, che io ho portato tante volte in evidenza anche in altre trasmissioni, è quella dell'adozione. Cioè, una persona che non sa neanche le sue origini biologiche. È il suo caso questo? È il mio caso. Io ho 56 anni, non so chi è mio padre, non so chi è mia madre. Cioè... biologici, non so chi sono, e come me siamo in tanti, facciamo parte anche di come un sito internet che è Astronascente, quello di Roma. Quindi lei sa che c'è un archivio da qualche parte dove ci sono gli elementi, esatto, utili a perfezionare la sua pratica, vorrebbe accedere a quell'archivio. Esatto, io dico, non ne capisco il motivo perché uno non può accedere dopo, cioè per lo Stato italiano, e la legge ti dice che dopo, se non sbaglio, il compimento del 100° anno di età. Ma io dico, ma lei aspetti 100 anni, poi perché non vuoi dirmelo e basta. Beh, adesso guardi, non ho sotto mano tutte le fattispecie, io immagino che sia anche per salvaguardare il diritto dei genitori di non averci più niente a che fare con quel figlio che, di cui ormai non vogliono avere. È atroce quello che dico, ma è così. Forse sono i genitori che sono tutelati a non voler essere più riconosciuti, è una pratica che loro hanno chiuso. Lei, e glielo dico senza crudeltà, probabilmente fa parte di una pratica già chiusa, evasa per i suoi genitori biologici, e sono loro che non vorranno riaprirla. Se volessero, sarebbe forse per loro molto più facile. Ho capito, però in questo caso si va a negare un diritto a qualcun altro, giusto? È una pratica, cioè chiamiamola pratica, chiamiamola come vuoi, però per me è qualcosa che per me è un'ombra, è un mosaico in cui mancano dei tasselli. Perché mi devono mancare? Io questo mosaico della mia vita non lo posso chiudere, cioè normalmente come tutte le persone. Faccia capire, perché mi interessa proprio come esperienza da comprendere. È veramente così atroce e forte il bisogno di un genitore biologico? Perché io, che ho la sua stessa età, sì, voglio bene i miei genitori biologici, forse perché ho sempre avuto certezza che fossero loro, ma non è un pensiero così fisso. Allora, non mi ricordo mai il suo nome. Gianluca. Gianluca, scusa, se l'essere umano, cioè l'uomo, va sempre alla ricerca o della religione, o alla ricerca dell'essere, o alla ricerca della scienza, della tecnica, cioè scoprire il mondo, i pianeti, non i pianeti, la luna, ma le sembra normale che un individuo non sappia neanche chi è suo padre e sua madre? Normale è una parola che non fa parte del mio vocabolario, nel senso... Mi rendo conto che rispetto alla media delle persone che lo sanno e magari non sanno che farsene questo dato, è una pratica che probabilmente può rivestire una certa urgenza nella sua emotività, e quindi sono perfettamente d'accordo con lei. Diego. Eccoci qua. La sua pratica in evasa. La mia pratica in evasa. Allora, ti voglio bene. Scusa se... A me vuole bene? In generale. Ah. Scusa se mi sono comportato male. Queste sono le pratiche in evase, si dice sempre, ma so di aver sbagliato, gli dirò perdono, gli dirò che ho sbagliato, ritornerò nei miei passi. Però guardi, non è che faccia sempre questo effetto che noi desideriamo, molte volte la gente non importa solamente nulla che noi chiediamo scusa, perché noi non esistiamo per quella fetta di nostro prossimo con il quale ci vogliamo scusare. Questa è l'atroce di questa pratica in evase. Sì, ma quella più che soggettivamente dal mio punto di vista e per me è più pesante è il fatto che un ragazzo, tanti ragazzi come me di 40 anni, quindi ancora ragazzini, trovano la paura di mettere su famiglia, la trovano, cioè rimandano sempre perché dicono avremo tempi migliori, speriamo, mettiamo via qualche soldo di più. E questa è la società. Sì, ma non parliamo delle pratiche altrui. Io mi preoccuperei delle nostre, perché sennò anch'io potrei elencargli 2 miliardi di pratiche che dal mio orgoglioso punto di vista il mondo dovrebbe chiudere. Però io parlo delle mie, come ho detto, alcune mie pratiche, le dica alcune sue, quindi la sua personale pratica è non essere riuscito a scusarsi con delle persone cui sentiva in dovere di farlo. Ines, buongiorno. Buongiorno. Pratica in evasa. La mia pratica in evasa, diciamo, è stata, mi scusi che ancora ho, è commossa, ricordo molto vicino. E mio padre è scomparso 5 mesi fa praticamente, non avevamo questo bellissimo rapporto perché cioè, era stato molto bello prima, poi si è interrotto qualche cosa, forse non ha capito bene come ero fatta e ha incominciato diciamo a crearmi un po' di problemi, per cui poi è avvenuto questo distacco, ma però in fondo penso che c'era sempre questo. È una cosa che accade spesso, le dico, con i genitori, quando uno cresce si allargano i fossati che in età più giovanili sembrano valicabili, uno poi viene preso dalla propria vita, dai propri affetti, dai propri impegni e non tiene bene il conto che in realtà il tempo non gioca a favore di questo divaricamento con la famiglia d'origine, e quando uno vorrebbe recuperare, ahimè, il tempo non ci permette di farlo più. Queste sono pratiche che, ahimè, difficilmente si possono chiudere, rimarranno sempre sospese. Giovanna. Sì, buongiorno. La sua pratica in evasa. Eh? La sua pratica in evasa. Mi piacerebbe che qualcuno 800240024 parlasse anche di pratiche piacevoli, perché affondare fino in fondo nella mestizia, nel dolore, nella disperazione è un giorno oggi grave, però non è l'unica faccia, è l'unico scaffale di pratica a cui si può attingere. Io ho un'infinità di pratiche in evase che farei salti fino al cielo se potessi chiuderle, e non soltanto sono legate a mestizia. Prego, mi dica, mi scusi. Allora, la mia pratica in evasa, io ho 78 anni, quindi ho una esperienza di vita purtroppo, come dice lei, perché tutto ne ha chiuse bello, parecchie di pratiche nella sua vita, tutto brutto. Io sto scrivendo il libro. No, mi dica, nella sua vita ne ha chiuse parecchie di pratiche, felicemente. No, ecco, appunto, è una vita di che voglio scrivere evasore, che praticante. 2 anni che ho in ballo e talmente le cose brutte della mia vita che non riesco a evaderlo, andare avanti a finirlo. Dico, me lo levo dalle gambe, non se ne parla più. Levarsi le gambe sembra più facile dirlo che farlo, guardi, l'assicuro. Quindi lei vorrebbe chiudere questo libro? Ballando, cantando, scriverei sul computer, sto scrivendo, no? Però pare che la vita dia soltanto le cose, oppure sorvoliamo sulle cose belle, non lo so. Io non sono stata nel lager, però quasi, perché ho vissuto la guerra proprio in mezzo a 3 chilometri c'erano tedeschi. Sì, non vorrei fare distinguo che sono atroci perché non c'è passata, non è proprio esattamente la stessa cosa. Tantissime persone hanno vissuto la guerra, tante persone, ma un numero ben circoscritto, ha vissuto un'esperienza in lag che è abbastanza diversa. Chiudiamo con Mimma. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei dirle una bella pratica inevasa. In effetti, quella che le sto per dire non è proprio meravigliosa. Diciamo che io sono la mamma di un ragazzo con dei problemi, io ho 64 anni, sono una libera professionista e vorrei, prima di chiudere i miei giorni terreni, risolvere questa problematica del dopo di me. Guardi, posso dire una cosa, condivido anche io con lei questo tipo di esperienza, questa è una pratica che non potremo mai chiudere, possiamo emotivamente cercare di trovare le soluzioni perché qualcun altro naturalmente possa chiuderla felicemente invece nostra, ma ahimè nell'ordine naturale delle cose un figlio, sia problematico sia non problematico, ci sopravviverà sempre, perlomeno così dobbiamo sperare, e speriamo di riuscire a far sì di organizzarci perché qualcuno chiuda questa pratica che non spetterà a noi naturalmente chiudere. 800240024, questa mattina stiamo cercando di affidare alla nostra memoria, perlomeno di scavare nei meandri della nostra memoria, se essa memoria biologica o sia memoria elettronica, dove travasiamo comunque parte cospicua dei nostri pensieri, dei nostri ricordi e soprattutto delle nostre pratiche inevase. Siamo partiti citando una poesia del 1981 di Primo Levi, in cui il poeta e lo scrittore si rivolge al Padre Eterno come se fosse un capufficio nel momento del congedo e elenca le pratiche che lascerà inevase abbandonando appunto il proprio posto di lavoro. Beh, questo è il commento che lo stesso Primo Levi fece a questa sua poesia. Io credo che questa poesia sia valida per tutti. Penso che ognuno abbia delle pratiche da evadere e per lo più le evada dolosamente o colpevolmente, che solo un uomo estremamente superbo possa arrivare al termine della sua vita tranquillo, sapendo di avere evaso tutte le sue pratiche. Forse qualche santo ha ragione, forse Don Bosco o il Beato Cottolengo possono giustamente arrivare alla fine della loro carriera con la coscienza tranquilla di avere evaso tutte le pratiche che erano state loro affidate o di cui si erano fatti padroni. Io, che sono sicuramente di gran lunga peggiore dell'ottimismo pur pessimista di Primo Levi, dico che nemmeno dei santi mi fido fino in fondo che non lasciano pratiche nei vasi. Non fa parte la condizione umana che nessuna santità riesce a assolvere fino in fondo, perché il santo pur rimane un uomo dotato di virtù eroiche, ma sempre uomo è. E se siamo uomini comunque lasceremo pratiche in evase. 800240024. Sentiamo Raffaele. Buongiorno, dottor Nicoletti, un onore parlare con lei. Ma è un onore, un piacere, dica, che è molto più divertente. Qual è la sua pratica in evasa? Sì, mi è rimasta per sempre nella mente. Ero al mare, a Francavilla al Mare, una località abruzzese, e c'era una ragazza di 24 anni, io ne avevo 17, a cui io piacevo molto, quindi mi stava sempre dietro. Una mattina mi prende per mano e mi porta a casa sua, dice: i miei genitori non ci sono stamattina, vieni con me. Aspetta, la dica lentamente, Centellini questa pratica è nevasa, perché sì. Io già vedo Filippo Reggi nel massimo quasi vicino all'apoteosi dell'attenzione, e Laura Faggini invece scrupolosamente tiene gli occhi bassi, ma il suo rossore capisco che è rivelatore del suo turbamento. Dunque, lei aveva trovato questa meravigliosa nave scuola 24enne, che lei 17enne, quindi in piena esplosione ormonale, la prende per mano a Martinsicuro, no? Dove stava? A Francavilla al Mare. Francavilla al Mare, in zona balneare, e la porta a casa sua. Cosa pensava lungo quel tragitto? Io pensavo tantissime cose, avevo anche un imbarazzo, insomma, nei miei pantaloncini. Sì, non riusciva a celare, diciamo, l'apoteosi fisica che naturalmente quella situazione, giustamente, nella sua giovane età non tradiva. Sì, timidamente. Quindi con visibili segni di turbamento lei la seguiva, la 24enne, nel luogo sarebbe stato l'alcova del suo piacere e della sua iniziazione, diciamo la verità. Fino a quel momento lei era praticamente stato all'asciutto. No, no, no, avevo iniziato ben prima, insomma. Quindi sì, però in maniera autonoma oppure... No, no, no, sempre dualistica. Con il gentil sesso. Beh, quindi però quella era la botta di vita, diciamo la verità. Sì, era una cosa meravigliosa per me perché avevo sempre avuto rapporti con coetanee. Vabbè, entra in casa? Entro in casa, io già impazzivo all'idea, e lei prende due panini, li apre con molta serenità guardandomi negli occhi, vedo anche un imbarazzo nei suoi occhi perché era indecisa se fare il passo o meno, perché lei si sentiva forse... Ma cos'è, una pratica di quelle parti, il panino cosa serviva? No, no, perché lei mi aveva detto mangiamoci un panino con la Nutella, seguimi. Ah, lei pensava un doppio senso. Sì, sì, e io quindi ho detto vabbè, ok, ti seguo. Lei mi ha aperto i panini, li ha imbottiti di Nutella e abbiamo iniziato a mangiarli guardandoci negli occhi. E poi? E non ho avuto il coraggio di fare altro, sono rimasto fermo così. Ma lei è proprio sicuro che l'invito non fosse semplicemente un semplice invito di mangiarsi un panino con la Nutella a un ragazzino? Dice, ti offro un panino con la Nutella, bimbo, ti do l'aranciata e poi te ne vai a casa. No, sono sicuro perché avevo sentivo fremere il suo corpo, il mio. Sì, vabbè, e non abbiamo molte avuto volte la fantasia fa fare miracoli. Se il suo corpo avesse fremuto in maniera così potente, non credo che avrebbe avuto difficoltà la signorina, una volta portato a casa, di fare il primo passo. No, perché le devo dire un episodio prodromico. Mia cugina, che era un po' gelosetta di me, qualche giorno prima aveva stizzato con lei e le aveva detto ma tu stai sempre a ronzare attorno a mio cugino e quindi lascialo perdere. E la 24enne, in un momento anche lei un po' di stizza, disse vabbè, ma tuo cugino è troppo piccolo, se no altrimenti lo avrei già preso. E questo lei già lo sapeva quando andò a casa? E sì, quando andavo a casa, io questa era la cosa che mi ha bloccato. Sì, ma lei quanti anni ha adesso? Io 43. Ecco, ancora non ha capito come sono fatte le donne a 43 anni, scusi. Era un banale gioco di vendetta fra amiche, non avrebbe voluto spizzare niente. Il panino con la Nutella in realtà è il più grande oltraggio e la più grande ridimensionamento del rapporto, che non poteva andare oltre di dare un panino a un ragazzino. Io direi che si potrà tranquillizzare, quella pratica non l'avrebbe comunque mai perfezionata, almeno nella direzione che i suoi pantaloncini indicavano, quindi si rassegni e si rassicuri. Raffaele, buongiorno. Ah no, Raffaele è già fatto, allora Lorenzo da Modena. Lorenzo. Ah, salve, buongiorno. E niente, mi sarebbe piaciuto essere meno imbarazzato nei rapporti con le ex, insomma. Io adesso ho frequentato donne più grandi di me e insomma mi hanno fatto un po' da nave scuola. E la sua ex l'ha cannato per incapacità? No. Guardi, avevo un ex molto bella rispetto alle donne attempate che ho frequentato ultimamente. Cariche attempate non è mica un insulto, attempate significa cariche di esperienza e di passione. Esatto, fisicamente erano un po' più decadenti dalla mia ex. Vabbè, non le tratti come fosse il mercato dei cavalli, scusi. Lo so, però è così, c'è poco da fare. Ma se lei vede, lei già dal lessico tradisce la sua incapacità. Non si lamenti poi se le donne dicono, non si dicono queste cose, ammesso che si pensino, uno deve anche abituare se stessa a non pensarle mai, la donna è sempre qualcosa di meraviglioso da scoprire. La decadenza che vuol dire? È una fattispecie passeggera, è semplicemente una convenzione, nelle pieghe di ogni decadenza si scoprono dei paradisi che le persone indifferenti non riusciranno mai a scoprire, quindi questa è la lezione che dovrebbe averle dato l'accannamento alla sua prima fidanzata. Non è che una donna bella dà più soddisfazione in un'altra. Essendo anche fra parentesi meno attraenti, quello che sia, però mi hanno fatto fare un grande salto. Ma le pagava queste signore? Qual era il motivo per cui c'è stata questa improvvisa gratificazione? Cioè le portava fuori, le gratificava? Sì. Ah, ecco, vabbè, grazie. Trovandomi più giovane, insomma, si trovavano un pezzo di cane più giovane tra le mani. Ah, lei ha fatto il salto di... Lei si offriva come gigolò a queste signore attempate e così aveva, si sentiva lei dalla parte vincente. Sì, però ecco, questo salto di qualità che mi hanno fatto fare mi sarebbe piaciuto rifarlo con le mie ex. Ecco. Ah, tornare indietro forte la sua esperienza, cioè, vedi, adesso che mi sento figo ti faccio vedere io, qualcosa del genere. Una cosa molto piacevole che insomma ti fa dimenticare adesso, fai un salto in avanti, superi delle inibizioni, insomma. Ah, quindi qua. Allora era imbranato, adesso che si è sciolto, dice, potrei farti vedere cose che nemmeno potresti immaginare. Però la vita è fatta così, è fatta di rimpianti che ci impediranno sempre di avere fino in fondo il possesso felice dei nostri ricordi. Giorgio. Buongiorno. Ho detto cambiate argomento, figliacco, c'è più uno che chiama parlando di cose tristi, adesso siamo tutti andati, vabbè, sono contento. Avanti, Giorgio. Allora, niente. Sono memorie anche queste. La mia pratica in evasa sarebbe quella di chiedere più che scusa, dire mi dispiace al mio primo grande amore, e forse anche unico, visti i vent'anni. Sì, però attenzione a non scivolare nel moccio amoroso, era la trasmissione di ieri, cioè tutti devono chiedere scusa ai suoi amori. Gli amori, quindi, si condividono, secondo me, nel bene o nel male. Quando l'amore finisce, nessuno deve chiedere scusa a nessuno. Tutti hanno dato e tutti hanno preso. Non ci colpevolizziamo, no, sempre. Era solo che il mio, diciamo, amore era finito per causa mia, visto che comunque era un amore già stato avanzato. Dov'è che avanzato di putrefazione, di solito si dice. No, avanzato anche nelle pratiche, diciamo, matrimoniali. E quindi... Poi, e lei ha trovato un'altra persona, ha mollato tutto? Purtroppo sì. Ma perché purtroppo? Poi, si sarà divertito a cambiare? È stato, non è, questo non vuole essere né un rimpianto né un rimorso, anche perché avevo 20 anni. Se ha fatto una scelta, l'avrà fatta con ragione di causa. Con 20 anni si ragiona più che altro con la seconda testa. Quindi questo è un cavallo di ritorno, lei è pentito? Sì. No, non sono pentito, volevo solo magari spiegare meglio a lei una situazione che forse non aveva capito e non ha capito adesso. Ma secondo lei è molto interessata dopo tanti anni a sapere il perché, per come, per quando? Avrà già diciamo elaborato la sua presenza uccidendolo mentalmente e dimenticandolo, non vorrà più che lei ritorni a riscaldargli la minestra, ma è andata, le ha rovinato un matrimonio, l'avrà lasciata depressa per un paio d'anni, poi spero che se ne sarà fatta anche lei una ragione. No, lei se ne è fatta una ragione assolutamente, come ormai sono fatto. E allora la lasci in pace. Lei per quella persona è una pratica già evasa, chiusa, sigillata, anzi probabilmente già mandata al macero, quindi si tranquillizzi, non fa parte delle sue pratiche in evase. Stavo osservando il flusso delle pratiche nevase che mi stanno arrivando su Facebook. Vedo che tutti, quando scrivono rispetto a quando parlano, quando si esprimono vocalmente e sono sottoposti allo stillicidio poi delle mie domande che incalzano, si limitano a pratiche nevase sempre di attività gratificanti. Tutti hanno libri da leggere, tutti hanno archivi da ordinare, tutti hanno quadri da dipingere, tutti hanno luoghi meravigliosi da visitare. Ci sono anche le pratiche nevase brutte, ci sono anche le pratiche nevase che ci procurano mesi se non anni di insonnia, ci sono anche le pratiche nevase che ci fanno sentire spregevoli nel nostro desiderio di volerle esattamente chiudere. Sentiamo ad esempio Sandro, buongiorno, da Udine. Sandro? Buongiorno, sono io, sì, eccomi. Le sue pratiche nevase? Io sono molto più perverso, io quando mi ritroverò nelle... Il perverso non sa mai di esserlo, guardi, se lei si autodefinisce perverso è una persona tranquillissima, si tranquillizza. Vabbè, grazie. Allora, per quando mi troverò nel panel del poeta, praticamente dirò, praticamente anch'io ho una bella lista di persone che avrei voluto uccidere. Sì, lo so, prima o dopo qualcuno le chiuderà queste pratiche per me o per... sì. Beh, no, non credo che vorrà soldare... Una bella listona... Vorrà soldare dei killer, come vorrà fare, scusi, a far chiudere? No, è troppo semplice, è una cosa che vorrei fare io, non lo faccio perché ho paura di finire i miei giorni in galera e non poter più fare... Beh, è anche brutto ammazzare una persona, non si fa, diciamo che allucinare, pensare, immaginare la rituale soppressione fisica di un nostro nemico ci può anche far bene in certe fasi della vita. Io sono passato per queste fasi, ho avuto persone che mi hanno fatto veramente cose atroci e per anni sognavo di incontrarle di notte in vicoli oscuri e pensavo lentamente quello che avrei loro fatto e questo mi faceva star bene. Quindi evidentemente è una pratica che aiuta, però farlo è una brutta cosa, diciamo la verità. Ma forse, non lo so, secondo me, se lei arrivasse al punto di, effettivamente, di uccidere una persona, non ucciderei semplicemente con una pistola. Beh, con... chiaro, uno usa la lametta, se no che gusto c'è, questo lo capisco. Ecco, in pratica una roba del genere. Il cavatappi, esatto. Ci sono il girmigastronomo, ci sono tanti attrezzi per farlo bene, però questo fa parte delle nostre umane maniere per elaborare un senso di ingiustizia subita. Però... Ma forse, no, è forse neanche questo in pratica, cioè, tanto per dire, una delle prime persone che non conosco fisicamente, non so neanche chi sia, sarebbe chi ha inventato il Grande Fratello, ecco. Vabbè, quello vorrebbe ammazzare chi ha inventato il signor Endemol, ammazzarlo, ma dai, non mi sembra, che male ha fatto, fa felici tante persone, cioè non spostiamo sempre l'oggetto delle nostre angosce sulla televisione o sui luoghi di riproduzione del reale. Un Grande Fratello è una grande vetrina dell'umanità, può essere scellerato come spettacolo, ma non è quello il male, ecco, non sono quelle le persone che meritano i fulmini sulla loro testa. Sono contento di avere sdrammatizzato questo suo progetto assolutamente leggermente inattualizzabile da lei di omicidio rituale. Paolo, provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto? Pronto? Sì, la sto ascoltando. Ah, perfetto. Dicevo delle mie pratiche inevase. Io sono stato condannato in un processo che riguardava una ditta, insomma. Ho fatto delle cose che non dovevo fare, effettivamente io sono reo, non confesso, ed è questa la pratica inevasa che volevo... Cioè è stato condannato comunque? Durante l'interrogatorio ho detto delle cose che hanno aggravato la mia situazione. E questo perché, scusi, si è fatto del male? Poteva difendersi, provarci almeno? Sì, perché ho detto delle altre cose, ho detto delle cose che in quel momento pensavo potessero scagionare me e potessero scagionare i miei... Cioè lei ha chiamato in causa altre persone, questo è il suo angolo? No, non ho chiamato in causa altre persone. Si è preso la colpa di altri? Esatto. Ma il suo avvocato cosa ci stava a fare lì? Il mio avvocato... ho capito, la sua vera pratica inevasa nei confronti del suo avvocato, allora il magistrato non può prendersela col magistrato, se lei si è caricato di colpe e giustamente l'ha giudicato in base a quello che lei ha messo agli atti. Esatto, ma io vivo personalmente questa mia posizione e infatti non mi colpo assolutamente il magistrato. Lo so, il problema purtroppo è nella sua difesa, immagino, la difesa doveva magari articolare un po' meglio e verificare quello che lei avrebbe detto. Comunque è una pratica inevasa, quindi la prendo per buona e la metto nell'elenco. Michele. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Sì, il giorno delle dimissioni, quando mi troverò in condizione di non poter più evadere nessuna pratica, ce n'è una che non mi dispiacerà per nulla non poter evadere. Sentiamola. Ed è ovviamente il mio mutuo, quindi 20 anni di rate che ancora devo pagare. Ma quindi lei spera di morire prima, così dice... Ma no, diciamo che può essere una consolazione, se proprio mi tocca, almeno il mutuo lo pagherà qualcun altro. Lascia, scusi, di solito uno cerca di lasciare alla famiglia qualcosa per assicurargli felicità o benessere, no? Spera che il mutuo poi se lo paghino i suoi figli o sua moglie. Ma non sono sposato e non ho figli, quindi... Ah, quindi non lo pagherebbe nessuno, a chi lo lascerebbe il mutuo? Se lei dovesse schiattare adesso, il mutuo chi se lo accolla? Nessuno? Ma problemi della banca, credo. Ma la banca si riprende la casa, non è che ci mette tanto. Vabbè, pazienza. Ma allora, a me non serve più. Vabbè, a lei non cambierebbe nulla. Appunto. E quindi? Però, niente, come dicevo, una consolazione. Sono tante cose che non potrò fare belle. È divertente la sua cosa. Brutta. Ma dov'è la consolazione, scusi? La banca... O lei paga il mutuo o si riprende il bene che aveva posto a fronte del pagamento del mutuo. Quindi la banca non piangerà mai, comunque sta a posto. Parenti non ne ha, quindi nessun parente si lamenterà di questo. A lei la condizione non cambia. No, però... Scusi, ho distrutto il suo sogno di oltretomba, però ne trovi un altro, questo non le cambierebbe nulla. No, diciamo che comunque le dimissioni, ovvero la dipartita, non è comunque una cosa bella. No, quello è sicuro. Di pensare a un qualcosa di consolatorio. Però io le consiglierei molto di aprire delle nuove pratiche, che ci sia piacevolezza nell'evadere, quindi si faccia prestare tanti soldi da un amico e se li beva tutti nel giro di una settimana. Quelle sì che sono pratiche da gusto lasciare in evase, quelle non le riprenderà mai, se proprio vuole seguire questo filone. Oppure, non so, faccia debiti, prometta, dia truffi, non lo so adesso, se il filone che le dà leggerezza e sollievo è lasciare gente che pianga sui suoi oneri inevasi, li faccia realmente, perché la banca sta tranquilla, guardi, non getterà una lacrima se lei muore perché si riprende il bene. Quindi le consiglierei di accendere nuove fonti di credito verso altre persone, siamo in una radio economica, quindi non dovrei dire queste cose. Graziella. Sì, buongiorno. Grazie, condivido appieno, saremo tutti dei potenziali assassini in questo mondo, ma oggi io a 70 anni mi chiedo, devo chiudere veramente la pratica con me stessa e mi sento in qualche modo artefice di tutte le pratiche non chiuse e quindi veramente la volontà esagerata di chiudere questa pratica. Ma quale pratica vorrebbe chiudere in particolare? La vita in generale. Beh, 70 anni, se dovesse pensare già alla fine a 70 anni, oggi c'è una speranza di vita che va ben oltre i 70 anni. Ma condivido, però lei lo sa, minuto per minuto, quello che ci aspetta non lo sappiamo. Sì, ma io sono molto curioso di quello che mi accadrà da qui a 5 minuti, poi non mi pongo il problema onestamente. Questo anche io, infatti io ho parlato di minuto per minuto, non di 5 minuti. I suoi minuti valgono quanto i miei, quanto quelli di un ventenne, quindi non si preoccupi. Certamente sì, però il percorso della vita, l'ho sentito da molte testimonianze, nessuno lo può annullare, no? Quindi certo. Proprio perché a noi stessi la responsabilità di avere o dover chiudere delle pratiche, ma proprio con me stessa, parlo di me in prima persona. Lei ha dei rimpianti, non vuole dirlo questa mattina. No, assolutamente, rimpianti comunque di non aver vissuto la vita, ho dedicato tutto e più di tutto agli altri. Beh, questo lo diciamo sempre, ci fa star bene. Anch'io mi dedico agli altri, ma dedicandomi agli altri ne traggo a volte anche un profondo personale egoistico piacere. Però mi piacere mi sono dedicato agli altri. Beh, la sigla di Filippo Reggi mi annuncia che questo giorno della nostra lettura, comunque della memoria, considerata come una pratica comunque lasciata in evasa. Quante pratiche in evasa ci sono nella nostra memoria? Io oggi cancellerò tutta la mia agenda elettronica e ricomincerò da capo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.